Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Quanto sono leali i prodotti che acquistiamo? Contengono sempre quello che dichiarano in etichetta? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Torniamo a parlare di sicurezza alimentare raccontando un caso virtuoso di innovazione al servizio dei consumatori. Nella seconda parte, dedicata come sempre al focus sui trend, parleremo invece di consumi analogici, quando il non digitale fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Corsa al discount, dove si recano 6 famiglie su 10. Tagli non solo al carrello della spesa, ma anche a visite mediche e controlli. Secondo i dati Istat, la crisi costringe le famiglie italiane a una severa spending review. In 5 anni, dice la Confederazione Italiana Agricoltori, il budget a disposizione per la spesa alimentare è calato di oltre 12 miliardi di euro. Wi-Fi in hotel? Italia, fanalino di coda. A offrire la connettività gratis è appena il 53% delle strutture, contro il 67% della media europea. Nelle altre si paga, sempre che il servizio sia disponibile. Peggio di noi fa solo il Portogallo. A fornire il servizio migliore, la Turchia, seguita dalla Svezia. Case in vendita a una sterlina. Succede a Stoke-on-Trent, in Gran Bretagna, dove da mesi nessuno comprava le 35 case abbandonate in vendita in zone difficili. Di qui l'idea del comune, che offrirà anche un prestito agevolato per la ristrutturazione. Chi si aggiudica le case deve impegnarsi a vivere in zona almeno 5 anni, così da rilanciare il quartiere ed evitare speculazioni edilizie. Torna Slow Fish dal 9 al 12 maggio al Porto Antico di Genova. Cuore dell'evento, organizzato da Slow Food, degustazioni, bancarelle, spettacoli e conferenze sul mare. Novità di questa edizione, Fish and Chef, con 16 grandi cuochi da tutto il mondo che prepareranno piatti a base di pesce. Nonostante la moda dei caffè di lusso, il tè resta la bevanda preferita dai britannici. Secondo un recente studio, ogni giorno ne vengono consumate nel paese 166 milioni di tazze, contro i 70 milioni di caffè. In media ogni britannico beve 3 tazze e mezzo ogni giorno. E sono 14 milioni i cittadini che dicono di non poter rinunciare all'appuntamento quotidiano. La borsa della spesa. Ma quelli sono orangamberi? Guardate, Zanza Toast! Oh, quei Medu Sandwich sono appetitosi! Fame! Cos'era quel boato? Coccodrillo supremo! Dobbiamo spegnere la macchina prima che gli animacibi lascino l'isola e invadano la terraferma. Dobbiamo solo attraversare la palude della colazione, affrontare la giungla degli animacibi e scalare la grande montagna di caramellone. Tanti auguri! Quanto è faticosa la nostra battaglia quotidiana contro l'ultracibo, un po' come quella dei protagonisti di Piovono Polpette 2 in uscita nei prossimi mesi. Durissima, a giudicare dagli scandali alimentari che si sono susseguiti in questi mesi. Carne di cavallo, capesante al cadmio, cinghiali radioattivi, insalata al veleno, solo per citarne alcuni. La sicurezza alimentare sta diventando una vera e propria emergenza per i consumatori, ma anche per i distributori, che spesso sono vittime di fornitori disonesti. E poi la crisi, la ricerca del prezzo sempre più basso, certo non aiuta. Nel tentativo di contenere i costi dei cibi in vendita, sottolinea la Coldiretti, aumenta il rischio che vengano utilizzati ingredienti di scarsa qualità. Le frodi alimentari costano al nostro paese centinaia di milioni di euro ogni anno, senza considerare i pericoli per la salute. Ecco perché fanno notizia anche i casi virtuosi, come le nuove tecnologie che Coop ha messo in campo nel laboratorio che sovrintende alla qualità dei prodotti. Si tratta di un nuovo strumento, tecnicamente un gas cromatografo, che è in grado di annusare le sostanze volatili degli alimenti e riconoscere quelli adulterati. Ci siamo fatti spiegare come funziona da Claudio Mazzini, responsabile sostenibilità e valori di Coop Italia, a capo del laboratorio. I gas cromatografi sono strumenti che servono a identificare una sostanza e a quantificarla. Questo ha una particolarità: non va a cercare una singola sostanza per quantificarla, ma fa esattamente il suo opposto, cioè mi analizza le sostanze volatili attorno a questa sostanza attraverso un procedimento di laboratorio, ovviamente, e me le va tutte a mappare e me le mette tutte insieme. Consideri che ci sono alimenti tipo l'olio che hanno oltre 100 sostanze volatili. In questo modo io vado a definire una vera e propria carta d'identità, una sorta di impronta digitale. Quindi questo strumento contemporaneamente mi rileva tutte queste sostanze e me le mette su una mappa. Facendo l'analisi di tanti prodotti vado a vedere come l'uno si differenzia dall'altro. Se io ho un olio italiano, però dentro, anziché esserci un olio italiano, c'è un olio che arriva dalla Grecia o dalla Spagna o dal Marocco, questo strumento me lo differenzia, perché le caratteristiche complessive di un olio di una certa zona sono molto diverse e lo strumento le rileva, quindi tutte le componenti volatili che danno l'impronta digitale del prodotto sono tra loro diverse, quindi in questo caso io le avrei identificato e rilevato. E ovviamente anche le adulterazioni. Ovviamente, se uno mi dice che mi dà dell'arabica e mi ci mescola del robusta, che sono due caffè con un prezzo molto diverso tra loro, ovviamente lo strumento me lo rileva. Anche questa è una frode. La gran parte delle frodi oggi non hanno in realtà un contenuto di rischio, anche il caso della carne di cavallo che le citava prima, per il consumatore, ma minano quello che è il concetto di prodotto leale, cioè di rapporto trasparente tra il produttore e chi compra. Quanti ce ne sono in Italia di questi strumenti? Al momento direi che il nostro è il terzo in assoluto, il primo in un'azienda, gli altri due ci risultano in un polo di ricerca in un'università, quindi al momento diciamo che è il primo al di fuori del mondo della ricerca. È un tipo di attività che immagino appassioni anche chi la deve compiere quotidianamente. Sì, assolutamente, in questi giorni proprio che è arrivato lo strumento avevamo fatto predisporre alcuni campioni di mozzarella preparati con l'aggiunto di latte in polvere, cosa che non è consentita in Italia, e devo dire che lo strumento immediatamente ci ha distinto la mozzarella fatta, come dire, da latte fresco e immediatamente cagliato, a quella che invece ha ricevuto l'aggiunta di latte in polvere. Non solo, mi ha distinto anche se il latte aggiunto in polvere era magro o intero. Quindi devo dire che le potenzialità sono molto, molto, anche al di là di quello che noi oggi immaginiamo. Allora, siamo alla frontiera del nuovo e come tale bisogna istruire lo strumento e saperlo utilizzare al meglio. Forte di queste nuove tecnologie, l'insegna leader della grande distribuzione in Italia ha deciso di mettere sotto la lente i prodotti di 10 filiere importanti, potenzialmente a rischio frodi. Maurizio Zucchi, direttore qualità Coop Italia. La crisi economica e sociale in questo momento amplifica il rischio che la rincorsa a questi prezzi bassi possa far abbassare l'attenzione su questi temi importanti per il consumatore, e quindi abbiamo deciso di lanciare una campagna informativa mettendo sotto la lente di ingrandimento 10 nostri prodotti a marchio che sono base della filiera agroalimentare italiana. Parleremo di latte fresco, di uova, di vino, di olio extravergine, i prodotti a base di pomodoro, la mozzarella di bufala, i prodotti biologici, la carne. Quindi tutti i prodotti importanti, questi 10 perché sono fondamentali della nostra filiera agroalimentare e per il loro valore possono essere oggetto di speculazione da parte di imprenditori disonesti per frodi e sofisticazioni varie. Quanto impattano, che tipo di conseguenze hanno, possono avere gli scandali alimentari sul mondo dei consumi, della distribuzione e sul consumatore? Il consumatore di fronte a questi scandali alimentari ha delle reazioni estremamente violente, come sappiamo, e purtroppo il quadro della situazione è che non sono episodi sporadici, qui siamo di fronte a un'economia sommersa basata sulla frode, qui ci sono delle imprese che lavorano di nascosto per sofisticare gli alimenti, quindi a nostro avviso, accanto all'ottimo lavoro che stanno facendo gli organi pubblici di controllo, bisogna responsabilizzare tutta la filiera agroalimentare, i vari imprenditori, perché dobbiamo fare la nostra parte, quindi controlli, rintracciabilità da dove prendiamo le materie prime, da dove vengono i prodotti, e dobbiamo tramite questo impegno espellere dai circuiti commerciali gli imprenditori disonesti, che sono una bomba orologeria nei confronti dei consumatori, nei confronti degli imprenditori onesti. Essere e avere. Analogico il legno, sulle pietre il disegno, il passare del tempo, sono le frecce ed il cerchio. Analogico il vento. Di nuovo in studio con Essere e Avere, cercando in rete materiali per il focus sui trend di questa puntata, ci siamo imbattuti in questa canzone di Massimo Bubola, cantautore che ha collaborato fra gli altri con Fabrizio De André, scritta a quattro mani con Beppe Grillo. La politica però non c'entra, anche se pubblicato ora, ha spiegato Bubola, il brano è stato composto 8 anni fa, si intitola Analogico Digitale e parla della perdita della cultura contadina. Digitale è eventuale. Consumi analogici è il tema di oggi, parliamo proprio di tutto quanto è analogico in contrapposizione con il digitale. Parliamo di suono, di fotografia, ma anche di nuovi prodotti e nuove professioni. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Dai maker, i neo artigiani, protagonisti di una vera e propria riscoperta dei saperi e dei mestieri di un tempo, agli agricoltori urbani. Crescono le start-up analogiche che guardano al futuro ma con i piedi ben radicati nell'eccellenza del passato. Patrizia. Con startup analogiche ci riferiamo alle nuove imprese che non sono solo nel campo dell'IT, dell'information technology, cioè nuove imprese manifatturiere per lo più piccole o medie che, pur non prescindendo totalmente dalla tecnologia o dall'ecosistema digitale, non sarebbe possibile, di fatto non operano direttamente in quell'ambito. Dunque parliamo sì soprattutto dei makers che inventano, hanno le idee, le progettano, le realizzano e le vendono tradotte in prodotti. Sono gli artigiani, quelli che sanno fare le cose, il loro stesso nome dal verbo to make, fare, rimanda proprio alla solidità del produrre con le proprie mani. Rimandano a un mondo passato che certo è recuperato e rappresentano però anche l'imprenditoria manifatturiera futura come protagonisti della cosiddetta terza rivoluzione industriale, descritta da Chris Anderson nel suo ultimo libro, ma anche da economisti di casa nostra come Stefano Micelli. Il nuovo artigianato va inteso come espressione di sintesi, dunque, tra saperi artigianali tradizionali, design di ricerca e uso sapiente delle tecnologie di produzione che ci sono, ma non sono necessariamente sempre digitali. Dunque, gli artigiani, come chiunque, non ignorano la rete e la tecnologia e anzi ne traggono vantaggi decisivi, come il miglioramento dei software, per esempio, open source di progettazione di produzione, così come per i canali di vendita in era di cross-canalità, ma in effetti nell'immaginario e un po' anche nella pratica prevale, pensando a loro e alle loro produzioni, la dimensione fisica, pragmatica, il processo del fare, la fisicità dei manufatti e dei prodotti su quella digitale, che è più strumentale e funzionale. Se pensiamo anche a livello amatoriale, il fenomeno dilagante del do it yourself di fatto non può fare a meno dei tutorial, dei forum, delle istruzioni in rete sul come fare, ma il suo vero portato è quello sul piano fisico. Oggetto simbolo di questa rivoluzione che è culturale, sociale oltre che economica, quindi creativa e produttiva, sono le stampanti 3D, le stampanti tridimensionali che consentono di ottenere la riproduzione in tre dimensioni di un modello realizzato al computer con un normale software di modellazione. Si può stampare cioè con queste nuove macchine e materializzare sotto i nostri occhi oggetti fisici di qualsiasi tipo, dai giocattoli ai pezzi di ricambio, insomma qualsiasi cosa. Tra poco quindi, per la prima volta nella storia, chiunque potrà farsi in casa ciò che immagina, compresa un'altra stampante 3D. I costi, tra l'altro, delle versioni più accessibili di queste macchine sono già intorno ai 1000 euro e quindi saranno l'oggetto del futuro che dopo i computer e il cellulare non potrà mancare nelle case, nei luoghi di lavoro e anche nei locali pubblici. È il caso di Fab Café di Tokyo, nel quartiere Shibuya, un bar che prende il nome dai Fab Lab, cioè quei laboratori con tecnologie e stampanti 3D che sfornano prototipi innovativi grazie proprio alla condivisione di macchinari e di idee. Un esempio tra i più noti in Italia è per esempio Officine Arduino. Bene, Fab Café è semplicemente un bar in cui andare a prendersi un caffè, ma anche un luogo dove potersi produrre oggetti di ogni tipo grazie proprio a una stampante 3D messa a disposizione dei clienti. Il prezzo del servizio è di circa $60 per mezz'ora di stampante, considerato come slot minimo di utilizzo, che però può essere diviso tra più amici, quindi ciascuno col proprio progetto trasforma in oggetti tridimensionali ciò che ha progettato in carta, feltro, legno, acrilico e molti altri materiali. È un luogo frequentato da giovani designer che vogliono realizzare prototipi da presentare per esempio a potenziali investitori, ma anche da semplici appassionati che si cimentano con la grafica per curiosità, scaricando gratuitamente dalla rete dei software disponibili. E le stampanti 3D potrebbero riportare in auge perfino il vinile e uno stile di ascolto musicale del quale molti sentono la mancanza. Ad Amanda Gassei è venuta l'idea di stampare 33 giri in plastica leggibili da un qualsiasi vecchio giradischi. Ha messo a punto una stampante 3D che consente di convertire un qualsiasi file audio in un disco fisico. Al momento il suo progetto è in fase di test, la qualità audio risulta ancora piuttosto bassa, ma chissà, potrebbe in realtà aiutare in qualche modo il rilancio di un settore, quello musicale, ormai in declino. Se funziona, sarà quindi possibile acquistare uno o più brani su internet e poi ottenere con la propria stampante un supporto da dare in pasto al caro e vecchio giradischi. E 12 fra gli attori più talentuosi del nostro cinema sono i protagonisti del progetto I Am, che li ha trasformati in altrettanti apprendisti delle botteghe artigiane di Roma. Elio Germano, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti, tra gli altri, diventano liutai, orafi, falegnami, calzolai. Trovate il video sulla nostra pagina Facebook, le immagini sono veramente belle, vale la pena di ascoltare però anche il sonoro iniziale. Patrizia, dagli artigiani agli agricoltori il filo rosso è lo stesso. Sì, ed è interessante la riscoperta dell'agricoltura, per esempio, da parte dei giovani, nonostante sia un dato da inserire nel quadro comunque preoccupante dei dati sull'occupazione giovanile, ma di fatto aumentano i giovani contadini. Il numero di giovani sotto i 30 anni che scelgono di avviare un'attività nel settore agricolo è in costante aumento. Questo è il loro profilo, secondo un'indagine col Diretti SVG. Hanno scolarità medio-alta, sono laureati e diplomati, una forte attitudine all'innovazione e all'adesione ai valori della green economy. Metà dei giovani tra i 18 e i 34 anni preferisce gestire un agriturismo piuttosto che lavorare in banca o in una multinazionale. Queste le motivazioni più frequenti: vita più sana, autonomia e la voglia di abbandonare le grandi città. Un caso italiano di nuovi servizi all'insegna di questo ritrovato, rifondato legame con la terra e la natura che coinvolge i più piccoli è il caso degli agri nidi e degli agri asili allestiti dentro le aziende agricole, dove scoprire o reimparare per esempio che il cibo non cresce nel supermercato e che il canto del gallo non è solo la suoneria di qualche cellulare. Sono un centinaio i cantieri di queste, chiamiamole così, palestre verdi per crescere futuri cittadini amici della natura, e sono in Veneto, Piemonte, Trentino e Friuli. E ci sono oggetti analogici già scomparsi persi, anche se non del tutto, che un po' ritornano le macchine fotografiche e insieme a loro le procedure di sviluppo e stampa che sono sì alla deriva, anche se rinasce o resiste per esempio qualche centro per lo sviluppo di rullini in bianco e nero, e molte sono le iniziative legate allo sviluppo di fotografie in stile vintage. È ritornata però la Polaroid, la macchina fotografica istantanea, oggetto mitico degli anni 80, scomparsa nel 2008, però risorta con vari modelli, tra cui Z340, estetica simile all'originale, digitale, niente zoom, con una stampante integrata per garantire appunto l'istantaneità del modello storico originario, che era la vera esperienza della fotografia Polaroid, cioè vedere uscire la foto che si creava sotto i nostri occhi. Altro fenomeno legato alla fotografia, la lomografia, cioè la fotografia fatta con le lomo, macchine analogiche. Un incontro fortuito nei primi anni 90, due studenti tedeschi scovarono una lomo Compact Automat, la macchina fotografica russa, la usarono un po' per gioco e poi, visti i risultati in termini di colore, saturazione, vignettatura, fecero incetta di lomo usate nella Berlino Est, le rimisero in funzione e cominciarono a venderle, per poi passare a una vera produzione con l'Homography Gallery. È nato così un nuovo stile fotografico, allora sperimentale, oggi conosciuto con il nome proprio di Lomography, che alimenta anche una nutritissima community internazionale che vanta un lifestyle analogico e che posta sul sito lomography.com circa 10.000 foto al giorno. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Barcellona sui consumi analogici? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Il taccuino Moleskine è spesso oggetto di operazioni di hackeraggio, il più delle volte avallate dal marchio stesso. L'ultima è stata ideata dall'agenzia di comunicazione spagnola Honest & Smile, che ha trasformato il blocchetto per gli appunti in una app analogica per iPhone, la Bracadabrap. In pratica il taccuino è stato dotato di un piccolo specchio, di tre filtri di plastica colorata trasparente e un supporto nel quale fissare l'iPhone. Grazie allo specchio e alla possibilità di tenere fisso il telefono, gli utenti possono riprendere con foto e video due angolazioni diverse della stessa scena, in pratica realizzando la tecnica dello split screen, ma in modo manuale, senza l'aiuto della tecnologia digitale. L'aggiunta di filtri è una piccola chicca che consente di inserire sempre manualmente gli effetti alle riprese. Ma c'è di più, che questa sorta di plugin fatto in casa continua a funzionare anche come taccuino. Per finanziare il progetto, l'agenzia ha chiesto il supporto degli stessi utenti tramite una piattaforma di crowdfunding, superando il budget previsto in soli 10 giorni, quindi il prodotto verrà realizzato. Grazie Alessia. Patrizia, quanto la filosofia maker è associata anche ai concetti di produzione e consumo sostenibile? La filosofia e il movimento dei makers sono non a caso già definite, come anticipavamo, la terza rivoluzione industriale, e il futuro artigiano è riconosciuto di fatto come nuovo modello di sviluppo sostenibile, perché la sostenibilità, questo termine, non riguarda solo l'ambiente, c'è anche la sostenibilità dell'attuale sviluppo economico. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Se vi siete persi qualcosa, cliccate sul sito radio24.it sezione programmi e sulla nostra pagina Facebook. Aspettiamo commenti, idee e suggerimenti, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.